Sono le 8:56 di lunedì 30 settembre 2024. E mentre mi avvio in ufficio, volevo lasciare qui qualche riflessione su questo incontro che la scorsa settimana abbiamo avuto, mercoledì scorso se non sbaglio, presso lo studio Campo Boario. Due parole intanto sullo studio Campo Boario, che ho già citato più volte, è uno dei pochi posti che dove oggi davvero si riesce a fare cultura senza nessun vincolo economico, in totale libertà. Non si cerca un pubblico, non si cerca il successo, non si cerca la celebrità, direi che soprattutto si cerca il dialogo, la discussione, lo scambio di idee, e quindi questo è un grandissimo merito per Alberto D'Amico, che lo porta avanti da tantissimi anni in varie forme, perché poi è uno spazio che si trasforma continuamente. In realtà sono più spazi, noi ci siamo visti proprio nello studio, che ha un'aria abbastanza austera ma straordinariamente affascinante, così tanto che alla fine con Alberto abbiamo deciso di svolgere lì anche la prossima presentazione di Stiamo sprecando internet, il mio saggio uscito lo scorso anno, che quindi torna a parlare alle persone in un luogo pubblico dopo parecchi mesi di stop. E dunque questo convegno in realtà riguardava l'impermanenza della poesia, il problema del rapporto tra poesia e memoria digitale. Io chiaramente penso di essere una delle ultime persone al mondo che può esprimere un'opinione sulla poesia, e sono stato chiamato più che altro per inquadrare il tema nel contesto dei vincoli appunto economici, che fanno sì che internet, che nacque come una sorta di archivio universale con promessa di conservazione eterna di ciò che ci avremmo pubblicato, poi in realtà nel tempo è diventato uno dei posti più precari sotto questo profilo, tant'è che si parla sempre più di fragilità della memoria digitale. Ne abbiamo parlato anche al corso che ho tenuto quest'estate per l'Istituto Luce con Andrea Daniele Signorelli, il giornalista, e naturalmente è vero, nel senso che, beh, intanto cominciamo col dire che per quanto avanzata la memoria digitale comunque viene fermata su supporti magnetici, e anche se in pochi lo sanno, i supporti magnetici sono molto più deperibili nonostante l'avanzamento delle tecnologie rispetto per esempio alla pellicola, no? Io faccio sempre l'esempio della RAI, l'archivio della RAI finché era fermato su pellicola, pensiamo ai kinescope degli anni 50 e 60, insomma ha retto per parecchio tempo, poi a un certo punto è stato introdotto l'Ampex, non certo con fini di archiviazione ma proprio per facilitare i palinsesti, ovviamente il registratore magnetico comportava tanti vantaggi. Il problema è che l'Ampex, soprattutto il primo Ampex, quello tutto di ferrite da un quarto di pollice, aveva una durata di conservazione di circa 20 anni, e nessuno nel frattempo si è preoccupato poi di fare delle copie, oppure di, in pochi diciamo, oppure di digitalizzare l'archivio. Come sapete l'archivio della RAI è stato digitalizzato un po' a macchia di leopardo, quindi grandi perle sono andate perse per sempre già ormai, e poi invece abbiamo tantissime cose conservate che stanno continuando a salvare, a digitalizzare, però sempre un po' con la logica dello stop and go, perché poi puntualmente si alza un politico e dice che questo è un costo e non evidentemente un diritto per gli azionisti, che non dimentichiamolo siamo noi cittadini che paghiamo il canone. E vabbè, chiusa piccola parentesi polemica, ogni tanto mi capita di farlo, scusatemi. E allora, più che approfondire quello che ho detto, che tra l'altro si può sentire perché l'ho pubblicato su Archive, anzi tra poco metterò anche il link, forse mi interessa aggiungere quello che ho pensato dopo aver ascoltato gli interventi degli altri, purtroppo non tutti perché sono dovuto andare via prima. E cioè, ho sentito tanti riferimenti a Benjamin, al suo grido di dolore per l'arte che perde la sua sacralità, la sua unicità a causa della riproducibilità, che è un tema che poi ritorna continuamente, no? Cioè, tutte le volte che il mondo, diciamo così, delle idee trova una tecnologia per fermare le idee da qualche parte e riprodurle, c'è sempre un grido di dolore che viene sempre travestito con motivazioni nobilissime, no? Per esempio la perdita della sacralità dell'opera d'arte nella sua unicità, che riflette l'unicità dell'autore, quindi ancora una volta questo autore con la A maiuscola indiscutibile, quasi ente deificato. Io dietro a tutte queste motivazioni molto alte ci vedo però sempre comunque un grosso problema. Più l'arte e in generale il pensiero è riproducibile e più le persone possono andare a vedere, ascoltare, fruire ciò che ritengono rilevanti per loro e non ciò che alcuni soggetti che stanno in mezzo pensano che siano rilevanti per tutti. Cioè, il problema è che più l'opera è riproducibile, meno importante, riproducibile e soprattutto accessibile, questo è il punto, più l'opera è accessibile e più chi si mette in mezzo tra il fruitore e l'opera, il famoso intermediatore culturale, chiamiamolo come volete, editore, intermediatore, curatore, insomma, tutta questa categoria di operatori culturali si sente sempre più minacciata e inutile, no? Perché se c'è qualcuno che da solo può mettersi davanti agli occhi quello che vuole, nella sua ignoranza, nella sua inadeguatezza, eccetera, a cosa servo io che ho studiato per far vedere alle persone ciò che davvero vale, ciò che è davvero rilevante per loro, che poi tra l'altro sono due concetti molto diversi. Comunque, io temo sempre che ci sia la volontà di travestire il problema dell'accessibilità da problema sacrale a un problema purtroppo molto pratico, che è quello appunto della sopravvivenza e della sostenibilità economica di tutti quelli che si mettono in mezzo. Anche perché purtroppo l'intermediazione culturale si fonda ancora, e non so se c'è un'alternativa, non so se ci sia un'altra possibilità, si fonda sull'idea che il momento in cui interagiamo con un'idea, con un pensiero, con un'opera d'arte, è qualcosa che si apre e si chiude. Cioè c'è qualcuno che apre una finestra in cui ti fa vedere qualcosa, no? L'editore che pubblica il libro, il direttore artistico del museo che apre una mostra, il curatore di una mostra che dice si entra qua, si esce qua, questo è il tuo percorso, qui è dove devo guidarti e tenerti per la mano. E poi si esce, poi tu torni nella tua povera vita dove però tutto questo contenuto scompare, quindi hai vissuto una sorta di momento magico e il potere di aprire e chiudere questa porta magica non è tuo, è di qualcun altro. Ecco, io credo che purtroppo negli anni abbiamo cominciato ad avere questo riflesso condizionato per cui il mestiere dell'intermediatore culturale è questo: aprire e chiudere porte, stabilire il momento in cui l'attenzione del fruitore è tutta nelle tue mani e devi sfruttarlo, perché poi è tutto finito, perché poi la persona verrà ritravolta nel magma della produttività e dell'intrattenimento più bieco, no? Quindi la cultura è qualcosa che si fa perché c'è qualcuno che ha la cultura e ti tiene per mano e poi però chiude questa porta, no? Ti riconsegna nel mondo degli istinti più bassi. Ed è per questo, io credo, purtroppo per questo e non per difendere la sacralità dell'opera, che il mondo della cultura si è sempre, a più riprese, rivoltato contro ogni evoluzione del concetto di riproducibilità e accessibilità. Si è rivoltato contro la stampa a caratteri mobili, si è rivoltato contro la fotografia, ricordiamo Benjamin, si è rivoltato contro la radio, e quindi no, le teorie mass-mediologiche, la teoria del proiettile, l'ascoltatore indifeso di fronte al pensiero della dittatura, eccetera, eccetera, perché la radio abilitò le dittature, almeno questo, questa è l'unica chiave evidentemente con cui ci viene raccontata nei manuali. E poi arriva la teoria critica, l'industria culturale che comincia invece ad avvicinarsi al cuore del problema, e infine arriva internet che, figuriamoci, trasforma tutto in un grande giocattolo, come dicono più o meno tutti, da, come dice per esempio Alessandro Baricco in The Game, che dà la parola a milioni di imbecilli, come disse Umberto Eco. Vedete, questo tema di considerare la moltitudine come il nemico, la moltitudine come... è un po' come il suffragio universale, no? Cioè, l'uomo di cultura fondamentalmente è contrario al suffragio universale, quindi alla scelta individuale nella fruizione culturale. Perché? Perché purtroppo tutto è accessibile, no? E quindi che succede? Che si fa la guerra agli archivi. L'archivio digitale, internet, non è stato distrutto soltanto dalle piattaforme che hanno rialzato muri e trasformato la nostra esperienza in una sorta di eterno presente, abilitato da un algoritmo. No, non è solo questo, è che anche chi doveva forse nell'internet vedere qualcosa di più elevato e di alternativo, l'ha considerata comunque una minaccia al proprio mestiere, che era appunto il mestiere di aprire e chiudere le porte. Se le porte sono sempre tutte aperte, io cosa servo? Cosa rimango a fare? Tra l'altro, in tutto questo, l'ultimo e forse più clamoroso dei danni è il fatto di aver lasciato l'accessibilità alla moltitudine ad elementi artificiali. Si è parlato molto, per esempio, in questo convegno di intelligenza artificiale. Da un lato abbiamo la cultura che esalta l'unicità dell'opera e quindi anche tutti gli strumenti per la protezione della proprietà intellettuale, il diritto d'autore, eccetera, eccetera. Da un lato c'è questo, no? Questo sistema della scarsità. E però invece la moltitudine, alla moltitudine l'intelligenza artificiale può accedere in qualsiasi momento con una straordinaria potenza e velocità di calcolo. Ecco, se ci si lamenta dei possibili problemi dell'intelligenza artificiale, non possiamo rinunciare all'idea di una accessibilità sdoganata e all'idea di trovare valore anche in questa accessibilità. Non so se necessariamente un valore economico, non sto qui adesso a immaginare modelli di business alternativi, non è la sede per farlo, però almeno cominciamo a cambiare il modo di vedere la rete con "stiamo sprecando internet". Ho provato a dare un po' la stura a questo ragionamento e forse posso anche anticipare la data: dovrebbe essere il 15 novembre, che è un venerdì, alle 18, che ci vedremo allo studio Campo Boario per discuterne insieme.